4 mattino. Come la raccontate voi, sembra che la prima cosa da fare è il ponte sullo stretto di Messina, mentre invece io che ho soltanto ho visto in televisione la conferenza stampa, è stata una delle cose. La prima cosa è rifare le strutture ferroviarie. Ma vi rendete conto che situazione di polizia, di controllo, di stato di militarizzato si sta andando incontro? Stanno instillando nella mente degli italiani il controllo, il prendere appunti, il guardare l'altro con sospetto. Certo che considerare la differenza tra le emissioni di un BTP e i soldi prestati dall'Europa, guardando solamente al tasso di interesse, è un po' anomalo. Io guarderei anche tutto quello che Dombrovskis ce l'ha fatto capire, ci attaccheranno poi dietro. Ha ragione l'ascoltatore, è chiaro che il ponte sullo stretto non era la cosa principale della conferenza stampa del presidente del Consiglio di ieri, di Giuseppe Conte, per carità, non abbiamo detto questo, però insomma colpisce perché ritorna ad ogni governo questo ponte sullo stretto. È un po' una Alitalia, diciamo, dal punto di vista della ricorrenza, dal punto di vista della ricorrenza, non dal punto di vista poi della sostanza. La questione dello stato di polizia, dei controlli, di quest'idea di Emiliano di prendete appunti quando incontrate qualcuno. Devo dire che concordo con quello che ci diceva Daniela Preziosi prima, probabilmente Emiliano l'ha detta male, dice ricordatevi chi avete incontrato, però insomma, per quello teoricamente c'è anche l'app Immuni. Sul fatto che ci sia una sorta di sistema di controllo costante, frequente, spero che si riduca a questa fase, cioè spero che questa serie di compressioni della libertà personale, di controlli che abbiamo vissuto, insomma, non diventi la norma, non diventi la regola. Il tema del MES, questo è centrale, lo dico all'ascoltatore, ha ragione nel senso che è chiaro che non si può guardare solamente nella scelta tra il finanziarsi con debito proprio, per così dire, con debito, con emissioni proprie, e con i soldi del MES, non si può guardare solamente al tasso, al rendimento, e quindi a quanto l'Italia paga di interessi, per intenderci. È vero però che se la limitazione è questi soldi li usi per la sanità, questi soldi li devi usare per la sanità, e la condizione è solamente quella, e pare che sia proprio così, beh, nel momento nel quale, come ci raccontava ieri il Sole 24 Ore, il ministro Speranza in testa un piano da 20 miliardi per la sanità, invece che spenderli in deficit, li posso spendere, o meglio, con deficit appunto pagato con interessi alti, posso spenderli utilizzando uno strumento con un tasso di interesse negativo e non ci sono ulteriori condizioni, beh, francamente non vedo proprio il problema. Ma per una questione di convenienza, è molto semplicemente. Cioè, se a te dicono ti do un mutuo all'1,5% o ti do un mutuo al meno 0,07%, cosa fai? Cosa dici? Prendo il mutuo al meno 0,07%, mi pare ovvio. La banca mi ridà i soldi, quindi. E così. Vedremo che cosa farà l'Italia. Del resto, su questo fronte c'è anche un confronto che all'interno della maggioranza, che emerge anche dalle pagine dei giornali di oggi. Siamo alla seconda parte di 24 mattino, sono le 7:22 minuti, è giovedì 4 giugno ed è la parte ovviamente dedicata alla rassegna stampa. Molti aprono sulle parole del Presidente del Consiglio di ieri. Conte, patto per la ripresa, è il titolo del Corriere della Sera. Conte industriali, nuovo strappo, è il titolo del Messaggero, sulle parole di Conte appunto sulle riferite alle dichiarazioni del neopresidente di Confindustria Bonomi. La lenta ripartenza dell'Italia è il titolo del Quotidiano Nazionale. Il capostazione è quello del Fatto Quotidiano e c'è Conte in un fotomontaggio con il cappello da ferroviere e la paletta Letta sul suo piano, il piano di Conte. Record di senza lavoro, Conte si aggrappa all'Unione Europea, è il titolo della Repubblica. 1 milione di posti di lavoro bruciati e Conte parla del ponte sullo stretto, è il titolo de La Verità. Fase 3 al via con 400.000 posti in meno, è il titolo del Sole 24 Ore, molti che si concentrano su questo, sui dati che sono arrivati ieri, ci arriveremo tra un attimo. Un patto per le riforme, è il titolo di Avvenire. Il Manifesto sceglie invece una storia sua. L'isola dei pirati. In Sardegna il governo di centrodestra ci riprova, a rischio il piano salvacoste che tutela il paesaggio. La Stampa, banche, scatta l'allarme prestiti. Sono i dati della commissione parlamentare, erogato un finanziamento su 4. Il Giornale vede già iniziare il dopo Conte. Aria di crisi. Il premier si sente al capolinea e si inventa un piano per tenersi la poltrona. Chi ha un piano, secondo Libero, sono gli statali, non tornare più in ufficio, altro che crisi, i dipendenti pubblici in quarantena stavano benissimo. Secondo un sondaggio il 93% vorrebbe continuare a lavorare da casa, dove nessuno può controllare l'attività, scrive malignamente Libero. E veniamo ad un po' di singole storie per poi arrivare alla parte generale alle 7.30, un punto generale sulle questioni politiche, sui dati, sulla disoccupazione, e anche arriveremo a una parte dedicata alla scuola. Oggi c'è un pezzo prezioso, un commento prezioso di Chiara Saraceno, la quale ci ricorda che ancora una volta, insomma, l'abbiamo fatto sentire poco fa, la scuola, in tutta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, alla scuola sono stati dedicati 17 secondi, quelli che vi abbiamo fatto sentire prima, e sono quelli nei quali dice sostanzialmente che si riparte a settembre. Prima però parleremo anche di politica e di giustizia, oggi ci sono molte vicende che si incrociano, prima però un paio di cose diverse da quelle che hanno a che fare con Covid e con la politica. La prima sulla quale vi voglio portare a tenere anche una linea di continuità con quello che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi è la pagina di Nello Scavo su Avvenire, pagina 17, che ci porta ancora sulla vicenda di Malta. Lo ricorderete, lo avevamo raccontato, Avvenire aveva fatto uno scoop insieme al Guardian, aveva raccontato che Malta, cosa fa Malta? Cosa ha fatto Malta almeno? Ha rimandato in acque territoriali italiane o libiche i barconi di migranti che arrivavano nelle loro acque territoriali, contravvenendo ad una serie di regole. La denuncia è arrivata sul tavolo del Ministero dell'Interno, sul tavolo del Ministro degli Affari Europei, di chi se ne occupa sostanzialmente, ed è arrivato anche sul tavolo di un giudice maltese che ha deciso su questo di aprire un'inchiesta. Nello Scavo però oggi ci racconta di più, ci racconta che su questa vicenda l'Italia ha deciso di mettere il segreto. A smascherare definitivamente il gioco maltese sarebbe potuto arrivare il governo italiano, che nei giorni scorsi ha accusato La Valletta di atteggiamento assurdo sui soccorsi e i dirottamenti segreti verso la Sicilia. Da Roma, però, è stato opposto il segreto proprio alla divulgazione delle informazioni che avrebbero potuto chiarire meglio cosa è accaduto a metà aprile. Un silenzio, viene spiegato, motivato dalla necessità di proteggere proprio le relazioni con la Libia e Malta, mentre quest'ultima lascia intendere di poter provare come anche l'Italia non sia del tutto estranea ai fatti. Che la strage in mare con i morti di Pasquetta fosse molto più che una faccenda con pochi colpevoli era apparso chiaro fin dal momento in cui l'Agenzia per i confini dell'Unione Europea aveva scaricato le responsabilità sugli stati che si affacciano sul Mediterraneo, Italia compresa. Ci sono dunque gli atti giudiziari di Malta, tra i quali bisognerà scavare, 419 pagine firmate dal giudice Joe Mifsud, che rivelano contraddizioni e sottovalutazioni. Una vicenda che promette nuove e importanti rivelazioni. Ci spostiamo sul quotidiano La Repubblica, pagina 23, a Taranto, per una storia raccontata da Giuliano Foschini che, a dire il vero, troviamo solamente qua. Forse qualcuno aveva visto questo film. È Il grande spirito di Sergio Rubini, girato a Taranto nell'ottobre del 2017. Un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, guidata dal procuratore Leonardo Leone De Castris, racconta che quel film fu girato quasi interamente grazie o con il supporto, per così dire, logistico dei clan locali. «Mi pagano per la sicurezza, io devo stare con loro per tutta la girata del film, sono soldi», diceva al telefono, intercettato dalla finanza, l'uomo a cui si era affidata la produzione cinematografica, Claudio Pugliese, cognato di Antonio Sambito, il boss che insieme con il fratello Claudio governava il quartiere Tamburi. Da ieri sono tutti in carcere con l'accusa di associazione mafiosa, e come scrive il GIP di Lecce Edoardo D'Ambrosio, uno dei punti fondanti dell'accusa è l'organizzazione di quel film. La casa di produzione Fandango, si legge nell'ordinanza, anziché rivolgersi a ditte specializzate, chiedeva e otteneva il contatto telefonico di Antonio Sambito, referente della criminalità organizzata per il Tamburi. Il clan aveva il controllo monopolistico per il reclutamento delle comparse, necessario per accrescere la fama criminale del gruppo all'interno del proprio quartiere. Pensavano a tutto. Procuravano la droga per gli attori, come risulta dalle intercettazioni telefoniche. Curavano il transennamento di intere aree del quartiere senza presentare nessuna richiesta di suolo pubblico. Gestivano i parcheggi e contemporaneamente assicuravano che nessun altro muovesse richieste estorsive, curando anche i rapporti con gli altri clan della città. Sarà da vedere poi che estensione, anche qua, che estensione avrà questa inchiesta. Le questioni che hanno a che fare con la politica e la giustizia. Il quotidiano La Verità la mette giù dura con Maurizio Tortorella sul ministro della giustizia Alfonso Bonafede, e però guardate che la storia dell'evasione di ieri dal carcere di Rebibbia è incredibile, perché sembra una cosa da... viene da dire quasi da cartone animato, cioè le sbarre segate, loro che si calano giù non con una corda ma con un manicotto per l'antincendio, e Tortorella firma un pezzo dal titolo «L'ennesima figuraccia di Bonafede, due detenuti evadono da Rebibbia». E per dare la misura della condizione del carcere di Rebibbia, del quale spesso ci siamo occupati, a dire il vero, del quale spesso abbiamo raccontato, insomma qua a Radio 24 e non solo, un po' su tutti i giornali se ne è raccontato, accoglie la denuncia di Donato Capece, segretario del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria. Il 28 maggio aveva inviato ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione una nota allarmante sulla situazione di Rebibbia. Chiedeva rinforzi agenti, almeno 10 agenti in più, 5 giorni esatti prima della doppia evasione. L'organico dovrebbe essere di 196 agenti, ma la presenza effettiva complessiva è di sole 150 unità. E poi, sui 150 poliziotti in servizio, almeno 81 hanno più di 50 anni e quindi avrebbero diritto a essere esonerati dai turni notturni. 37 sono fruitori di permessi in base alla legge 104, la norma che permette i distacchi per parenti bisognosi di cure. 10 andranno in pensione nel 2020. Morale, si arriva a un poliziotto ogni 23 detenuti. Di qui appunto la fuga che c'è stata a Rebibbia. Politica e giustizia che tornano al centro della scena con tutta questa serie di interviste che sta rilasciando Luca Palamara, era stato da Giletti l'altro giorno, ieri è stato da Bruno Vespa e un po' maliziosamente Il Giornale a pagina 7 nota questo, tra tutte le dichiarazioni che ha rilasciato, questo crescendo si impara, ossia Palamara che scopre, per così dire, che c'è una sorta di perverso gioco mediatico giudiziario intorno alle intercettazioni, lo scopre nel momento nel quale appunto con un Trojan vengono intercettate le sue chat e emerge quello che è emerso sul fronte delle correnti. Crescendo si impara e l'ho scontato sulla mia pelle per la legge del contrappasso, dice Palamara porta a porta, lo racconta Anna Maria Greco appunto sul Giornale a pagina 7. che ci sia un processo, un problema mediatico per le inchieste, se lo dicessi lo direi riferito a me, ma potrei citare Luigi Ferraioli che nel 2012 denuncia le storture di un processo che vede i PM protagonisti e la diffusione di carte prima che siano state notificate agli indagati. Questo non è più un processo penale, ma un processo che si svolge in altra sede. Parole che arrivano da Luca Palamara, che scopre dunque questo circuito, per così dire, mediatico, giudiziario. Trovate molte cronache sui giornali, naturalmente, dell'arresto, a proposito di politica e giustizia, dell'ex senatore De Gregorio, arrestato per estorsione. Prendiamo le cronache di Repubblica, da Maria Elena Vincenzi: ad arrestarlo su richiesta della DDA, la squadra mobile di Roma, è accusato insieme ad altre 8 persone di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Di fatto che cosa faceva? Di fatto metteva in atto delle estorsioni, almeno secondo i magistrati. Per esempio, a dare il via alle indagini, la denuncia del proprietario di un bar in zona Salario Parioli, al quale venivano estorti 80.000 euro con minacce tutt'altro che velate, perché c'erano anche 2 militari della Marina Militare e una commercialista insieme a lui, insieme a De Gregorio. Vuoi tenere aperto questo bar o no? Vuoi che torniamo domani e ti mettiamo i sigilli? Al blitz De Gregorio non aveva partecipato, aspettava fuori in macchina, ma il barista non ha avuto dubbi nel riconoscerlo. Quando lo ha visto in foto, alla fine la vittima aveva pagato e quei soldi erano finiti nelle società dell'ex parlamentare. Questo stando ovviamente alla ricostruzione dei magistrati. E qua si scatenano un po' di firme politiche, a partire da quella di Filippo Ceccarelli, sempre sulla Repubblica, nel ricostruire un po', no, questo personaggio politico al servizio del miglior offerente, l'uomo appunto che aveva ammise di aver preso 3 milioni per passare con Berlusconi e mandare a casa il governo di centrosinistra, lo ricorderete, il governo di Romano Prodi, e c'è il racconto di Filippo Ceccarelli che tiene dentro un po' tutto, la cosiddetta operazione Libertà che favorì la fase più alta e indimenticabile di Italiani nel mondo, che era la formazione di De Gregorio, sul cui poster De Gregorio volle raffigurarsi con la scritta "Il coraggio dei valori", per poi ammettere appunto di aver preso 3 milioni per far cadere il governo Prodi. Si pavoneggiava con gli stati maggiori, interveniva sulla politica mediorientale come sul Festival della Canzone Napoletana, ora cercando acquirenti per l'Alitalia, ora fondi per il ponte di Messina grazie a certi suoi amici italoamericani. Fondatore minore del PDL, in mancanza di meglio, impresse a se stesso un'accesa linea cristianista. Fu il primo a esibire il rosario in Parlamento e propose una legge per arrestare chi non esponeva il crocifisso. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per la tua impresa. Mattino. Comunque a me questi presidenti di regione che vogliono che prendiamo appunti eccetera mi hanno un po' stufato, cioè non sono calabrese, non sono siciliana, non sono sarda, sti cavoli, quest'anno vorrà dire che non ci si andrà. E basta dare addosso a tutto quello che dicono questi governanti, per favore, siamo i peggiori nemici di noi stessi. Non c'è altro paese straniero che si autocritichi negativamente come facciamo noi. Sono d'accordo con Conte di ritirare fuori l'idea del ponte sullo stretto di Messina, purché sia fatto con l'acciaio dell'Ilva di Taranto, sopra ci facciano atterrare gli aerei di Alitalia e i pedaggi siano gestiti da Atlantia. Ok, impossibile. Beh, quindi impossibile. Quindi è un no dal nostro ascoltatore. All'altra ascoltatrice dico, insomma, le critiche sono dovute, nel senso che bisogna far notare le cose che non vanno, le cose che non funzionano, se ci sono delle perplessità. Altrimenti, se vuole, raccontiamo che va tutto bene, improvvisamente andrà tutto bene. Se diciamo che va tutto bene, andrà tutto bene. c'è ancora qualche tensione. 349-238-6666 per i vostri sms, messaggi WhatsApp, anche audio naturalmente, e le nostre pagine social, siamo in diretta su Facebook, ci trovate su Twitter, su Instagram, un po' dappertutto. Se volete anche vederci, siamo là su Facebook, se siete appassionati del genere. Dunque, la parte un po' più politica di questa giornata si compone ovviamente della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte di ieri, il quale, e prendiamo da Sole 24 Ore a pagina 3, lancia questa idea di rilancio, appunto, stati generali dell'economia e piano per i fondi europei, così al via la fase 3. Il pezzo lo firma Manuela Perrone, ci racconta quello che avete un po' sentito anche in GR24, che vi abbiamo fatto sentire prima dalle voci del Presidente del Consiglio. Dice che è l'occasione per disegnare che il paese che vogliamo, che questa fase 3 è un nuovo inizio, dobbiamo agire con lo spirito del 2 giugno, dove si legge in tutto questo l'eco, scrive Lina Palmerini nel suo commento quotidiano Politica 2.0, delle parole di Sergio Mattarella, anche nell'apertura a un confronto con le parti sociali e le opposizioni annunciato ieri da Conte. E però, sottolinea Lina Palmerini, i problemi restano aperti e sono problemi che hanno a che fare con la stessa maggioranza di Giuseppe Conte, con la maggioranza e con la struttura, con la macchina dello Stato. Se il dialogo è la nuova carta che si gioca il Premier in questa fase 3, resta comunque in carico al governo la responsabilità di una pubblica amministrazione che va adattata a un'emergenza che diventerà perfino più pesante. Il dato di quasi 400.000 posti di lavoro persi in due mesi, marzo e aprile, spinge nella direzione di strutturare questo confronto al di là di quello che lo stesso vice segretario del PD Orlando ha definito una traccia da sviluppare. E qua entriamo nel tema dei problemi interni alla maggioranza, soprattutto le due componenti principali, PD e Movimento 5 Stelle. Allestire un negoziato con le parti sociali, scrive Lina Palmerini, vuol dire mettere sul tavolo le risorse effettivamente disponibili. Invece la coalizione rimane dentro alcuni dilemmi, come quello tra PD e 5 Stelle sul MES. Conte ha rinviato ancora le scelte, ribadendo che deciderà solo dopo aver letto i regolamenti e con un confronto in Parlamento. Ma come si può dialogare se i nodi all'interno della maggioranza non sono sciolti? È un punto importante. Per quanto riguarda i dati sull'occupazione, trovate il pezzo a pagina 4 di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, che chiarisce un po' tutto. Persi 400.000 posti a marzo e aprile, c'è stato un boom degli inattivi, ossia di quelli che non cercano lavoro, un più 750.000, è questo il dato. Mentre ieri è stata una giornata particolare per Matteo Salvini, che è andato, a proposito di lavoro, è andato nella sede dell'ANPAL, cos'è? L'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, quella che deve gestire i percettori di reddito di cittadinanza e aiutarli appunto a trovare un lavoro. Repubblica ha un'intervista con Mimmo Parisi, l'uomo che la guida, nel quale risponde anche a un po' di accuse, quella di aver speso un po' troppi soldi, di aver fatto avanti e indietro tra il Mississippi, dove ha un lavoro nell'università e una parte della famiglia, e l'Italia all'ANPAL con i voli in business, e dove dice: beh, con Salvini ci siamo trovati d'accordo, il lavoro che stiamo facendo lo stiamo portando avanti duramente. Qua insomma ci si mette libero a pagina 4 a dire che i dati sono tutto meno che confortanti. Antonio Rappisarda: solo il 2,6% di chi ha intascato sussidi lavora. Su 2 milioni di percettori del sussidio, appunto, solo il 2,6% di questi lavora. Un flop colossale. E qui, attenzione, non c'entra nulla il lockdown. Perché? Perché c'è un problema di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e di capacità dell'ANPAL di incrociare tutto questo, tutte questioni che ovviamente Parisi avrebbe dovuto risolvere. A Salvini chiedono, pentito di aver votato una riforma del genere, lui risponde no, il problema è che da qualche mese c'è totale confusione, il sistema per incrociare domanda e offerta è fermo. E però appunto tra Parisi e Salvini pare che ci sia una certa sintonia. Prima di andare alla pausa per il traffico, vi voglio leggere un passaggio del commento di Chiara Saraceno sulla Stampa, pagina 21. Insomma, come si diceva nel discorso di ieri del Presidente del Consiglio, Non è stata assente la scuola, e però è stata riservata a 17 secondi nei quali dice: ah sì, a settembre ritorneranno sicuramente in classe. Chiara Saraceno sulla stampa firma un commento sul fatto che di fondo il tema è che manca una strategia. L'unico ritorno alla normalità che rimane pervicacemente precluso è quello della scuola e dei servizi educativi. Gli unici cittadini cui è impedito di tornare alle loro abitudini, relazioni, occupazioni normali sono i bambini e i ragazzi. Anzi, anche il ritorno a scuola a settembre è avvolto nella nebbia più fitta, nonostante le rassicurazioni generiche di Conte ieri sera, stanti le scarse risorse messe a disposizione per affrontare anche le più elementari esigenze di riorganizzazione. Anche l'organizzazione delle attività estive, cui si è dato il via libera tardivamente con una moltiplicazione di indicazioni e livelli decisionali che produce incertezza, rischia di partire in ritardo. I bisogni, i desideri di bambini e ragazzi, i costi di questa lunga sospensione forzata di relazioni sociali non mediate da uno schermo, di una didattica online che anche quando ben fatta non può escludere il senso del fare scuola, i rischi di un'interruzione del processo di allentamento della dipendenza esclusiva dalla famiglia e viceversa, apprendimento del confronto e scambio tra pari continuano a essere del tutto marginali nell'agenda politica. Difficile da non sottoscrivere. Traffico. Le 7, 48 minuti e 30 secondi, caro Fabio Tamburini, nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, per il nostro appuntamento del giovedì. Fabio, buongiorno, come stai? Bene, bene, eccoci. Puntuale l'appuntamento con la ripresa. Eccoci qua, la fase 3 al via, è l'apertura del nostro giornale, con 400.000 posti in meno. Dati impressionanti quelli di ieri forniti all'Istat, riportati come diciamo da Giorgio Pogliotti e Tucci, e insomma, e che ci raccontano soprattutto, almeno per il momento, che la gente nemmeno lo sta cercando il lavoro, Li hai appena ricordati i numeri ed è inutile ripeterli. Certo, sono numeri che cominciano a far paura, niente a che vedere con i 30 milioni di disoccupati americani, sia perché l'Italia è molto più piccola, sia perché l'Italia ha un sistema di ammortizzatori sociali davvero significativi. Però sono numeri che fanno paura lo stesso, anche perché sono destinati a crescere molto. La cassa integrazione e il divieto ai licenziamenti non avrà durata infinita, e quindi dopo l'estate ci aspetta un autunno molto molto problematico, mi verrebbe da dire un autunno caldo. Il problema dell'occupazione c'è, è inutile far finta di non vederlo. Il problema vero è che la pandemia, il Covid, ha messo in difficoltà un numero significativo di imprese, e quindi alla fine bisognerà tirare una riga e i conti non torneranno, e di conseguenza per l'occupazione saranno mesi davvero difficili. Davvero difficili. Ascolta Fabio, tra le imprese in difficoltà, lo raccontiamo bene oggi sul Sole 24 Ore, ci saranno quelle che si occupano di riciclo, aziende di servizi ambientali e nettezza urbana, perché abbiamo detto e raccontato e scritto che nel decreto rilancio sono previste le accelerazioni dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, però qua abbiamo dei comuni che pagano con ritardi abissali, lo racconta Jacopo Giliberto a pagina 12, e insomma i rischi che queste aziende corrono sono forti oggettivamente. Beh, questo è davvero uno scandalo. Dichiarazioni roboanti, promesse, miliardi come se piovessero nelle tasche degli italiani e delle imprese, e poi dobbiamo assistere a una situazione in cui gli enti locali non pagano le imprese che fanno servizi ambientali, pagano con ritardi di mesi, e chi li paga gli stipendi di queste imprese? Anche per gli stipendi dovrebbe valere lo stesso, ritardiamoli di mesi, ma così il paese non va avanti. Allora, meno promesse, più fatti, e che vengano pagati i debiti. In un paese civile i debiti si pagano. E qui chi non paga i debiti sono i comuni, avranno i loro problemi. Le province, le ASL anche. Sì. Province, ASL, lo documentiamo nel servizio di oggi che, ripeto, abbiamo scelto di farci la fotografia di prima pagina, di dargli un grande rilievo. Ripeto la parola, è uno scandalo. Meno parole, più fatti. Primo, pagare i debiti. Sì. Allora, dal punto di vista politico, la giornata di ieri lo abbiamo raccontato, abbiamo anche dato conto del commento Elina Palmerini di oggi. Il tema è questa conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Conte, che vuole far partire la fase 3 con gli stati generali dell'economia, un confronto aperto con le parti sociali, con qualche tensione con Confindustria, che abbiamo insomma, regolarmente raccontato e riassunto. Qua c'è il tentativo di riprendere in mano le redini del paese, con qualche problema interno alla maggioranza, che forse è la questione più che lascia più perplessi. Anche in questo caso l'appello è fatti, fatti, fatti, meno parole, meno parole, meno parole. L'idea di aprire un confronto con le parti sociali mi pare una ottima idea, ma il tempo stringe, sono passati mesi. La fase 3 oggi non dovrebbe aprirsi il dibattito su come fare per farla partire, dovrebbe essere già tutto fatto, tutto confezionato per passare per l'appunto dalle parole ai fatti. Invece qui, dopo mesi di pandemia e di paese bloccato, siamo al punto che apriamo il dibattito sulla fase 3. Beh, ragazzi, se l'ora non torna. Bisognerebbe accelerare un pochino su questo fronte. Ovviamente il dibattito. Ripartiamo a settembre, o forse in autunno, magari a fine anno. Ma dico, stiamo scherzando. Allora, qua tra i temi di discussione c'è ovviamente il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Oggi c'è l'intervista, tra l'altro è stato ospite nostro ieri, Antonio Patuelli, c'è un'intervista di Laura Serafini, Antonio Patuelli, il presidente dell'ABI, il quale dice che il MES è da usare, non c'è più un rischio sovranità. Nel frattempo, in queste ore, Fabio, si è aperta un'importante partita finanziaria, quella che vede protagonista Leonardo Del Vecchio e la sua azione su Mediobanca, per poi di fatto mirare a Generali. Qual è la tua lettura? La lettura è che si preparano le munizioni per uno scontro frontale. La posta in gioco, per la verità, non è Mediobanca, di cui Del Vecchio ha annunciato la volontà di crescere nell'azionariato in misura significativa. La vera posta in gioco sono le generali di Trieste, sono ormai rimaste in un'Italia che si è molto impoverita di grandi gruppi, una delle poche realtà importanti a livello internazionale. Non è che come Italia abbiamo molto, abbiamo l'ENI, abbiamo l'ENEL, abbiamo un paio di grandi banche e poi abbiamo le generali, che di tutte è forse la preda più ambita, e qui la posta in gioco sono le generali. Speriamo che in questo scontro che si preannuncia campale, alla fine non si corra il rischio che le generali non siano più italiane, e questo sarebbe davvero per tutti una colpa grave. Sì, anche se appunto, come dalle indiscrezioni che poi pubblichiamo oggi, delle quali racconta Antonella Olivieri, Del Vecchio avrebbe rassicurato su questo, no? Avrebbe detto no, non c'è alcuna intenzione di farla passare in mani straniere, l'intenzione sarebbe quella appunto di mantenerla italiana. Vedremo. Non mette in discussione le intenzioni, sì, di Del Vecchio, il problema è che si apre uno scenario di incertezza e di conseguenza teniamo d'occhio i capitali generali, perché è un capitale per l'intero paese. E grazie anche per oggi e per questo giovedì a Fabio Tamburini, il nostro direttore, direttore di Radio 24, l'agenzia di stampa Radio Core. Ci fermiamo, c'è GR24. Fabio, buona giornata, naturalmente. Buona giornata a tutti gli ascoltatori e naturalmente anche a te. Ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. Faremo innanzitutto due chiacchiere col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per capire un po' come si stanno preparando. Regione di turismo da una parte, regione di confine anche, perché insomma c'è la Francia là, e quindi come stanno vivendo questa fase di riapertura dei confini regionali. E poi gradite le vostre opinioni su quello che sta succedendo negli Stati Uniti al 349-238-6666. Se le proteste dopo l'uccisione di George Floyd da parte di un agente, che cosa vuol dire anche per la politica americana, se Trump ne uscirà rafforzato o ne uscirà indebolito, e che cosa possiamo aspettarci anche dal punto di vista politico negli Stati Uniti. Tra poco con Maria Latella, naturalmente con i nostri ospiti.